un pochino seduto e un poco riccato. Poi se no mi piglia troppo la mandronia. Un sonno così, di là me si mette io ciao, sono fregato, sono cotto, che ha giù fatto oggi, fai quell'altro, sono stanco, basta, smonta, che te li smonta, vai, boom, va, sono stanco, preferisco, guarda, farmi, come facevo più, a 10 ore di lavoro, ma no, ti stai a capire tutto, sia fisicamente che mentalmente. Ehi, lo sai che cosa c'è? E quando ti assidi con questi baracchini ti rompi le balle pure, mamma mia. Poi provi, non esce bene, di nuovo rismonti, rifai, E di là ma è quello, mi sono di nuovo drogato con questo cazzo di baracchini. Va. E vabbè. Perché sei cuocone, Ma tu riconosci i baracchini agli Scraft, ma li hai avuti già? No, gli Scraft no, perché della Craft li ho avuti io. Della Craft? Aspetta, mando una foto, aspetta. Yeah. Avanti Roberto, avanti. Ehi, ti ho mandato un messaggio già. Che bella, sono rientrato, c'è qualcuno? Quello che c'ha, Claudio, di cosa stiamo parlando? Ma su che apparato vuoi adattato? Cioè, nessuno vuole rimettere? No, perché quello lì l'hanno provato su un apparato HF, ma non andava bene, dovevi abbassare l'impedenza, un sacco di problemi. È meglio utilizzarlo sul baracchino quello. Oh, sì, ma già esce bene, ce l'aveva anche Claudio, l'ha avuto. Sì, no, sono bei microfoni, sono, tra l'altro costano anche un pochettino, se li fanno pagare, non sono dei ZG, microfoni da giocare. Sì, pochi ne sono arrivati. Io ho un Tanner che nemmeno lo sapevo di averlo. E, aspetta come si chiama, te lo dico al volo, se aspetti un secondo ti dico che modello è. 2411C. Una specie di azzurrino metallizzato. Da tavolo è questo, è tutto diverso dagli MP più 3. Per certi versi, aspetta, che cosa si assomiglia? Non so neanche, tipo un SBE, però rimane più tondeggiato. Sì. Aspetta, forse ho capito, sì, ma è piccoletto. Usceva. Un attimo, aspetta, c'era qualcuno che stava chiamando, avanti, chi è? Ah, io Capri 2, sto vendendo tutta la stazione, se ti interessa, sto vendendo tutto, io te la compri, tutto in blocco. Ma quindi non ci puoi più entrare nella soffitta? Adesso Giovanni con la buonasera, è ritornato Riccardino, c'è Claudio, Gianni doppio room e Gianni da Muros. Facciamo rientrare a Riccardino così sentiamo la sua bellissima modulazione e facciamo i commenti chi non l'ha sentito. Avanti Riccardino. Ok, adesso sto provando il Turner e sono tornato e volevo sapere anche da altri come sto andando adesso. Meravigliosamente, la tua voce naturale, bella, brillante, diciamo che potrebbe spingere di più, però va bene lo stesso, va bene così perché è una bella voce, è una voce candida, proprio la voce bianca e squillante. Ok, grazie, comunque saluto a tutti, sono entrato senza salutare, avanti Bracco. Ho capo, no, un attimo solo entro voi. Poi continua a lavorare. No, quello che adesso c'aveva la campagna Bonannaro, chi è? Gianni di Muros. Ho capito. Comunque se per caso vi interessa, diciamo, mantenete in forma, Gianni di Muros, vieni con me e ti mantieni in forma. Io ho la campagna Bonannaro, un ettaro, e c'è un po' di tutto, olive, frutta, ogni maniera. Ho ok, ti lancio il micro all'amico di Muro, voi io faccio questi grecca. No, zona Crabile, se, c'è una zona che ti posso dire, è una strada che va verso San Giovanni di More, se, ma però si passa da, davanti alla cantina di Bonnannaro. Ti hai detto, mia moglie di Torralba, io sono andato a Sieri, però ho visto sempre a Torralba quando ero in Sardegna, da. Chi hai detto? Parla piano, sta parlando, sono sicuro. Marco, se di Torralba li conosco tutti, però non ho capito il cognome. Mario Manca Spinosi, puoi dire, quello che era all'ospedale? Sì, Mario è un tipo alto, robusto. E ho capito, a Torralba è passato il coronavirus, già lo sai, e la sorella, la sorella lavorava al ricovero e se l'hanno vista brutta. Intanto saluto a Giovanni, ben entrato, già ne do più una a questa parte così non rischi di non conoscermi. Ti saluto, dai, avanti Giovanni, scherzo. E ho capo, io faccio questa greca subito perché sto facendo un lavoro e ringrazio per avermi fatto entrare. Ciao Riccardi, continuamente apparecchi e microfono, beato tengane, come miliardari fai, quanti apparecchi c'hai? Ce ne avrai minimo una decina. Ok, comunque ti saluto affettuosamente, mi fa sempre piacere sentirti. E saluto, non mi sbaglio, c'è anche Claudio, Roberto, Doppio Rum e poi gli altri chi sono. C'era anche Luca, non so se c'è ancora Luca, ci sei? Sì, sono qua all'ascolto, ciao, bravo, buonasera. Ciao, vabbè, io riprendo e rilancio il micro a voi, a Roberto, fai girare, vabbè, resti in ascolto, eventualmente entro verso l'una di notte, dai. Cacchio, l'una di notte, quando mi sto girando dall'altra parte, dai, se c'è qualcuno, forse c'è coso, Marco Condolo, che lui c'ha il fuso orario di 6 ore sforzati in avanti, dai, forse lui c'è, stranamente non l'abbiamo ancora sentito Marco, lo sta facendo come diceva qualcuno, orecchie di porco, ma era male, si è abbassato il QRM e questa propagazione maledetta. Ok, Riccardi, facci sognare con questa modulazione. Ok, faccio sognare, comunque saluto a Bracco, mi fa piacere anche a me ascoltarti e alle prossime. E sì, adesso sono contento anche che stia andando bene, adesso però ho cambiato apparecchio perché quello è mezzo sordo qualche volta e ho messo il Tornado 34S con il Turner. Sempre bella, bella radio, pulita, chiara e recoaro, come dicevano pubblicità. Ok, grazie, fai girare. E alla grande sempre Riccardino. Vai Gianni da Muros, anche tu facci sognare. No, si è spostato, sto facendo altre cose. Facciamo riprendere a Gianni Doppio Rum. E quindi ti ha fatto la collezione di microfoni. Oh Riccardo. Ricky. Mi sono fatto la collezione, sì, non stavo uscendo. E sì, almeno così non ho problemi dire che non ho dei microfoni da tavolo. E anche baracchini ne ha parecchi, già, non ti credo. E cos'è cacchio? Un orco. Avete sentito questo rumore? Ecco Roberto. Avete sentito? Sembrava un film di terrore. Chiamo Roberto. Che è avanti? Chi è che chiama Roberto? Hanno chiamato Roberto, un segnale molto forte. Chi è avanti? Sì, Mario, sono Roberto. Ah, ti ascolto bene Mario, ciao, ben sentito. Compagnia mia di Riccardino, Gianni Doppio Run, Gianni Damuros, Luca Del Monte e c'è Bracco, Giovanni in coso, in stand-by. Ti rilascio il mic e così saluti eventualmente, così vediamo se ti ascoltano. Sì, io ho capito Roberto. E niente, non ascolto, avevo piacere di salutarti e saluto anche gli altri che sono all'ascolto. Però fra un po' ti saluto perché sono stanchino e mi devo fare la doccia e poi non so se ci sentiamo o ci sentiamo domani. C'è Rob? Mario, Mandarino, probabilmente è una situazione un po' critica, come ho detto l'altra volta, io l'ascolto bene, che siamo abbastanza vicini, 9 più 20 qua arriva, vediamo chi l'ha ascoltato, vediamo se l'ha ascoltato prima Riccardo e poi Gianni Doppio Rum. Ciao Mandarino, sì, già ti sento, forse lui mi sentirà. Mandarino, mi ascolti? Sì, già ti sento benissimo. Doppio Rum? Mandarino, mi arriva 9.5 qua, non c'è nessun problema, arriva benissimo. Attento. Vediamo, posso ascoltarmi? Mario, mi ascolti? Sempre di lusso ti sento, Robert. Però adesso ti saluto perché, ripeto, sono un po' stanchino, ho la schiena a pezzi e adesso vado a farmi una piccola doccia, dai. Ok, dai, ti ascolto bene di radio, anche se c'è questo residuo di alterata, probabilmente è quel problema dell'alimentatore dell'altra volta. Ok, e ci sentiamo nel prossimo, se eventualmente coincide sarà sempre un piacere ascoltarti. Avanti Giovanni, anzi Gianni da Muro, avanti a te. Ma se riserva l'alimentatore sto prendendo un... Ok, grazie Gianni, sì, saluto anche io a Mandarino e vi saluto a tutti, ciao Roberto, ciao Gianni, Doppio, Luca e a tutti gli altri eventuali in ascolto e mi sono dimenticato. E ci sentiamo più tardi, vado in carica batterie e come ho detto ci sentiamo più tardi, ciao a tutti. Ciao Riccardi, ci sentiamo, buona carica quando la fai e non mangiare troppo, dai. Lasciami un po' a me. Ciao Riccardi, scherzo, avanti lo vedo. Il coso di maiali, ciao Riccardo, ben sentito, dai, probabilmente non avremo voluto sentirci per oggi, probabilmente invece domani non ci saranno problemi, che rimango ancora un po' e poi vado via. Buona carica, buon tutto e buon riposo, a più tardi. Vai Luca e poi Capri. Ciao Riccardo, alla prossima, dai, salutoni, buona cena e buon tutto, ciao. Andiamo a cielo di segnale. C'è bisogno un cazzo. C'è questo qua schifoso che sta lì con l'eco a rompere le balle. Ma vattene a fanculo! Ha detto amico. Ah, la radio è portentosa, ma cacchio, è da fuori, lasciaci in pace, QSO locale. Vai Gianni doppio lu. A chi QSO locale in Italy? Vabbè, calma calma. Adesso dovrei mangiare anch'io, ma no, oggi non mangio assai cana. Mi mangio una mozzarella così veloce. Non ho voglia di mangiare oggi. Troppo caldo sta facendo. Oggi è una giornata, vabbè, stanno iniziando l'estate, tra poco siamo in piena estate, non ho ancora fatto il bagno, ma non secondo me te, già la domenica mi butto in acqua. Oggi Robe stavo girando con la Jeep della Fiat. La Jeep quale? Che modello? Il Compass? Eia. La sostitutiva te l'hanno data? Sono portato a fare il tagliando, cazzo, però non l'avevo nemmeno sfruttato quell'olio, perché mi avevano cambiato l'olio gratis loro, no? E il filtro me l'hanno fatto gratis, il primo tagliando. Poi mi hanno operato, sono stato 3 mesi senza usare la macchina, non l'ho sfruttato e loro mi hanno detto che lo devo cambiare lo stesso per prassi, perché anche se è nuovo l'olio, dopo 2 anni si deve cambiare lo stesso. E allora ho detto vabbè, cambiato, 270 euro per fare il tagliando. Vabbè già, loro ti mettono tutto a prezzo pieno. L'olio si cambia una volta all'anno, non ogni 2 anni, si cambia una volta all'anno indipendentemente dai chilometri. Se ne fai di più di 20.000 è ancora magari più breve il cambio dell'olio, il passaggio, però indipendentemente dal chilometraggio, anche se fai 100 km in un anno lo devi cambiare, perché ci sono degli additivi ossidanti che anche se rimangono fermi è come che si arrugginiscono e ti fanno delle multe che ti creano problemi. Sì, ma nell'arco di 2 anni è stato cambiato già l'olio, non te l'ho detto, ti ho detto che mi hanno fatto il primo taglio d'oro gratuitamente. Il secondo tagliando me l'hanno fatto da poco, poi a me mi hanno operato e tutto quanto, è stato 3 mesi che non usavo la macchina, quindi non l'ho sfruttato, ho detto ah, io non ne faccio tagliando, dice ma che perde la garanzia se lo fai tagliando, e vabbè, allora lo devo fare per forza. Ma non c'è bisogno di andare da loro, cacchio, garantire solo le fesserie che dicono non esiste più. La legge del decreto Bersani, il libero mercato, tu lo puoi portare dove ti piace e lo fai dove vuoi il tagliando. Infatti dal secondo tagliando in poi lo faccio dal mio meccanico, non lo faccio più lì. Perché lì cominciano filtro pulile, filtro nafta, filtro gasolio, filtro gas, filtro benzina, filtro questo, filtro l'altro, filtro aria, olio, eccetera, eccetera, e ti arrivano conti esorbitanti ogni volta. Invece quando andiamo al carico cambio l'olio, le candele e fatelo io. Vabbè, l'olio, il filtro dell'olio, il filtro dell'aria li devi cambiare sempre, matematico quello. Filtrati i polline, se sporco normalmente, diciamo teoricamente dovrebbe essere cambiato ogni 6 mesi il filtro antipolline per questioni di allergie eccetera, però anche se lo fa una volta all'anno va bene. Il filtro gasolio dipende dal chilometraggio. Però se stamattina come sono entrato alla Fiat mi hanno fatto bloccare, mi hanno fatto aprire tutti gli sportelli e me l'hanno tutta sanificata la macchina. E ti hanno fatto pagare? No, era attivo. Me le fanno tutte così, prima di entrare te le sanificano prima di entrare dentro, perché poi loro ci, dopo che sono sanificate ci mettono il nylon sopra il sedile in terra per non sporcare e via dicendo. Ma sia all'ingresso che anche all'uscita te l'hanno sanificata? No, non sono uscito, mi hanno dato quella sanificata in sostituzione, io non sono uscito con la mia, l'ho lasciata, capito? Ah, perché ti devono fare la sanificazione, ti devono, non è obbligatorio, loro lo fanno per cortesia, perché non è obbligatorio, e devi soltanto disinfettare le parti tipo il volante, le valve, le marce, frena a mano, dove tocchi diciamo, qualcuno ti fa, con cosa te l'hanno fatta, con il vapore a vaporello o ozono o degli spray, cosa hanno utilizzato? Vabbè, ma la bomboletta attaccata al tubo dell'aria. Ah, ok, vabbè, sono sempre cose ridicole, mia già. Sanno, cioè, cose per prendere in giro la gente, anzi loro non gli posso dire niente perché non è colpa loro, il problema sono questi che mettono queste leggi inutili, che non valgono niente, che cacchio di discorsi stanno facendo. C'è gente lo fa pagare dalle concessionarie, non facciamo i nomi, 50 all'ingresso e 50 all'uscita. Ho visto uno che l'hanno fatto pagare. No, a me no. A me non mi hanno fatto pagare niente. Se poi l'hanno messo nel corso in mezzo, mi hanno fatto pagare di più qualche altra cosa per pagare anche quello, non lo so, però mi hanno fatto il preventivo e il preventivo è 278 euro per fare tutto il tagliato. Dallo solo ti mettono l'olio a 15 euro al litro, il filtro dell'aria che costa 10 euro te lo fanno pagare 25 euro, il filtro dell'olio che costa 8 euro te lo paghi 18-20 euro, tutto così. Non parla tutti i ricambi originali che però non c'ha niente a che vedere con la Fiat, sono dei ricambi in scatolati Fiat, però non c'ha niente a che vedere con la costruzione Fiat, sono fatte da ditte esterne e ti paghi la scatola. Vabbè, io la mia macchina prima la Opel la portavo da Zurino oppure a Porto Torres la Opel e ogni volta erano 300-350 euro e la portavo al rifornitore con 150 euro cambiavo candele, olio e filtro olio e filtro aria. È andata sempre bene, l'ho tenuta 12 anni con la macchina, mi ha mai dato problemi, ha fatto 350.000 km, l'ho rivenduta e camminava come il primo giorno, non ti dico altro. Ehi, basta fare seguirle bene le manutenzioni. Ok, Riccardi, avanti a te. O se ne andato, no, Riccardi è andato via. Si è andato via. Avanti Gianni da Muro. C'è Antonello che deve entrare. Antonello va. Ho sentito i bip, bidi. No, quando entra Antonello già schiaccia tutti, arriva 9.60 a fondo scala, non c'è da sbagliare. Solo Claudio, con Claudio se la gioca lui, come segna. Vabbè, ma il bip era il suo, almeno era uguale. No, probabilmente era un altro, se no me ne sarei accorto alla grande. Quando entra Antonello, guarda il segnale, vai, boom, di colpo, il colpo si sente, si ribalta il baracchino dal colpo che dà lo Smith. Cappa. Mi stava vendendo con l'apparecchio Antonello, con l'apparecchio che c'è. Ah, lo che è? Io. No, già è uscito bene, già c'è bene, dai. Molte volte esagera Buruedo con queste amplificazioni, cacchio. Antonello, io poche volte l'ho sentito uscire bene. Esce bene quando attacca il Savetta. Con Savetta esce bene, gli fa la modulazione meno impastata, perché lui parla tutto così, tutto la sua pronuncia, capito? Però con Savetta esce bene. Ehi, vabbè, signori e signore, non ce ne sono là, diciamo solo signori, io vi lascio, vi faccio proseguire con la conversazione sperando che sia interessante, come capita molte volte. Saluto a Doppio Rum, saluto a Gianni Capri dal Monte, saluto a Luca e non so se ci sia Antonello, Giovanni Bracco, chiunque ci sia su questo canale. Io faccio QRT perché sono stanchissimo, c'ho un po' di sonnolenza prima che mi drommi in diretta. Buon tutto e buona fine di serata. Ciao. Vabbè, buon lavoro per domani, ci sentiamo, dai, buonanotte. Luca, ci sei? Eia. Io già mi ricordo, vedo la dormita, mi dovevo attaccare la poltrona. C'è una poltrona che praticamente si abbassa, quando tu ti curi che si abbassa, alza il coso dei piedi, appoggi i piedi ed è come se fossi a letto. E vabbè, ma di solito mi curi come il divano, a me mi piace il divano. Sia a me che al cane, tutti e due. Avanti, Luca. E io sono in fase di decollo. Grazie, così presto. Già, ho fatto un po' di cose, sono proprio gli occhi che mi fanno male, e bruciano gli occhi. Io alle 6:30 mi sono alzato stamattina, alle 6:30. Mi sono pulito tutte le gabbie, tutto quanto, ho messo a posto, ho pulito la cucina, tutto quanto, ho fatto colazione, mi sono lavato, ho portato giù il carro e poi sono andato alla Fiat a portare la macchina. Io mi ricordo che l'appuntamento era alle 11:30, mi ha chiamato, ma siccome come me non è ancora arrivato, sono già alle 11, era alle 10:30 l'appuntamento, perché mi ricordavo alle 11:30? No, alle 10:30. Io sono sveglio dalle 3 di stamattina, 3:30. E come mai? Ma non lascia dormire, cosa ne so? Che ne sei? Ansia? No. Niente, non ti svegli di bar e non dormi più. No, non lo so. È da un po' che non ci metto più dalla motorizzazione, un po' di anni. Non te lo so dire. Bisogna che chiami. Cerchi su Google, metti motorizzazione civile Sassari, numero di telefono e telefono. Ma CQC perché cosa ti serve? Sempre per guidare lo scuolabus? Lo farai tramite computer. Ciao Gianni, capisci, buonanotte, domani, ciao. A te mani gutto, mani. Ciao Gianni, ci sentiamo, dai. Buonanotte. Allora, avanti Luca, sembri cotto parlando, sei tutto... Sono stanco già, sono bucato, capito? Ma ormai ce l'ho vicino, sennò è stato spento il baracchino questo. E anche io l'ho fatto per quello, perché così quando torniamo dal lavoro stanco mi potevo rilassare, capito? Ho fatto per quel motivo lì. Sì, va bene, ho uno qua vicino all'altro attaccata alla mensolina, quello cost. Invece gli altri due sono dentro l'armadio. Io ne ho uno, due, più l'alimentatore, tutti parcheggiati. Alla fine quando ne hai troppi non ne fai niente, ma secondo me, cosa ne va? Io già, vado via. Io ne avrò 7-8. E alla fine cosa? Vabbè, ma se ti piace, siamo ne tanti, alla fine non ha senso. Più che altro per riempire la stazione, dai, lo fai. Ogni tanto, vabbè, ha senso perché se magari si guasta uno c'è l'altro, non è che... Però vanno bene i due, no? Non 50, come siamo noi, siamo esagerati. E tu spero non si guasta. Si possono guastare, no? Anche. Magari uno ce la riparte e usi l'altro, non sta senza modulare. Vabbè. Senza dubbio. Ogni giorno. Ferma, flex. Roba di su cellulite che qui saluti. Poi ricordi chi presto non dorme di notte. Chi da ma di tre andati a mare e di gomma. Vabbè. E lì è andata, ce l'ha fatto lo stesso il bagnetto. Sì, è bello. È una più grande. Ce la facciamo, andiamo domenica, no? La prossima settimana. La prossima settimana sicuro. C'era gente in via al mare oggi. C'era gente con l'ombrellone. Chissà che in questi giorni ci vado anche io. Tanto cosa mi porto a casa? Anch'io ci voglio andare, però... adesso mi spiego questi lavori che devo fare. Devo riparare, un telefono a Roberto. Telefono e un tablet devo riparare. Già va bene, ce ne sia sempre. Lo so. Quindi bussia. Ma molte volte non ne hai voglia già. Non hai gana. Vabbè, se guardi la gara non fai nulla, anche io molte volte non avevo voglia di alzarmi alle 6 di mattina per andare al lavoro, eppure dovevo farlo, quando c'avevo quel turno lì facevo dalle 6 all'una e avevo finito, la sera non ci andavo, o facevo dalle 7 alle 2, capito, o dalle 8 alle 3, questi due tre turni avevo. Sì, vabbè, quando lavoro così va bene, già dico continuo, ma il mio alla fine è un po' stressante, che poi trovi quello che ti gira le balle, ma facciamo perdere, non commento. Lo so, ci sono quelli che tirano sempre la cifra e via dicendo. Vabbè, hanno fatto anche come costavo nel baracchino, mi volevano dare 200 euro, chi mi voleva dare 150, rimane qua, non lo vendo più. Ah, quello colto. E allora, se ci ho pagato 450 euro, lo do con 200 euro o 100 euro. Ehi, vabbè, le parto 450, vai, io dai 350, va anche bene. E così lo stavo dando. Proprio andando male mai, 330, giusto così, per farli felici e contenti. Ma perfetto, che non c'ha nulla, tu già lo conosci, è perfetto. Poi c'è quel microfono che l'avevo fatto io, cazzo. L'avevo fatto da due microfoni, lo stesso. E l'avevo fatto veramente bene, esce un po' bene. No, io per caso un 48 non l'ho prima preso. Io non l'ho preso per caso, l'ho preso per la macchina, lo sai benissimo che lo usavo in macchina, poi la macchina l'ho venduta e l'ho tolta. No, no, no, era per dire, no, non sto dicendo a te. Non prenderei mai un 48 per caso, in macchina sì, ma per caso no. Ma la mia intenzione era quella di metterlo in macchina di nuovo, farmi un bel rimpianto come ce l'avevo prima e metterlo in macchina, solo che devo bucare il tettuccio e non voglio bucarlo, non c'è più fida ruggine da buio e mi dà problemi. Ti pensi che c'è la cappotta, ma lascia perdeva. Te lo vuoi usare, te lo usi con la base magnetica, sempre con la gomma sotto, eh. Ma blu, non è la matte sciglosa, quando ce l'avevo con l'astra, capisci, da portatore sparavo con binaggio l'alghero io. Già, cosa ti dica, rischia, cosa ti dica, io non l'avrei fatto, ma se non ho messo mai in macchina di marina, perché non me la futti nuda. E magari non te lo fa fare. Ah, volendo anche la magnetica, sì. No, buco no, ma poi non ne metto io, lo sgumaccolo. No, non ne ho mai messo, non mi interessa, ne ho un poco di metterlo. Tu lo sai che c'è una ditta che fa le antenne uguali alla Turbo 2001, alla Mini Turbo, uguali identiche sono, solo che c'è un altro nome. E te la stai comprando? No, perché già l'hai visto cosa fa, l'attacca c'è di sigari non funziona, fa cosa lo compra a fare, se no me l'avrei preso. Secondo me dovresti prendere l'alimentazione diretta dalla batteria. Poi se spegni il motore non funziona più il baracchino, è un casino. Già, dovresti fare un collegamento direttamente alla batteria, capito? Portati la tensione dentro la macchina, dalla batteria però, così già ti funziona. No, insomma, non c'è uno spazio per passare i fili, non c'è uno spazio. Dovrei bucare, fare, no, non voglio fare nulla, non voglio rovinare nulla. No, infatti, la macchina è nuova, cazzo, ma quanto tempo ha? Ha 2 anni, ma c'ha 14.000 chilometri. 2 anni ce l'hai, ma nuova l'hai comprata? E allora? Nuova la pacca dei negozi oppure chilometri zero? Nuova di zecca. Te la stai ancora pagando, sì. Vabbè. Ma se non c'è un buco, c'è 24.000 euro. Pensavo chi sia, quello che non fuma già, 24.000 euro. È bella, brava, che la spinge anche, no? Sì, fino a 198, così l'ho tirata a gas. Fino a 198 poi ho mollato, c'era ancora accelerata. Ascolta a me, l'hai già ritirata? No, c'ho la Jeep, ti ho detto. Ah, ancora la Jeep, là, capito. Trovato in comodato d'uso, là. No. Vabbè, sempre me la danno a me. Io se non c'ho la macchina sostitutiva non me ne lascio. Solo per quello è comoda la Fiat, perché se me la meccanico te devi tornare a piedi, lasciare la macchina e poi andare a riprendere. Ma tanto non domani. Beh, la devo mettere sotto controllo perché c'è quel problema del contachilometri. Vabbè, tanto la macchina è in garanzia ancora, no? Vabbè, praticamente è in garanzia sino a aprile, poi col coronavirus ne hanno fatto la proroga sino a giugno. Ascoltami, quanti anni ha la macchina di garanzia? 2 anni? Sì, 2 anni. Ma non la compri nuova, dico, 2 anni di garanzia c'è? Sì, se non fai il prolungamento della garanzia, sì. Quanto la puoi prolungare? Gli altri 2 anni. Che paghi la differenza, no? Normale. Ma, già va bene così. una fruttinuta. Tanto adesso dopo di questa volta qua la porterò sempre dal meccanico mio e basta, non la porto più a spendere tutti quei soldi, gli faccio cambiare olio, filtri e candele, la macchina va bene, non c'è bisogno di un filtro polio, né filtro viso, filtro naso, né giammani pochi di cose. Tutta questione di soldi, tutta questione di soldi. 45, 75, 76 euro. Per carità, guarda. Vabbè, dimmi se sto mancando di radio già, sono mancato di radio. No, no. Ah? No, non si è mancato. Luca, comunque, per quella storia che mi stavi dicendo, si può fare anche a rate? Ma io non lavoro già, come faccio a fare la rata? Il mio dentista a me non mi ha chiesto né finanziaria né niente. Io gli davo 500 euro al mese, gli ho dato 5.000 euro tutte in una volta e poi gli altri soldi gli ho dato 500 euro al mese. Cazzo, ho preso le zimidia però. No, no. Oh, già, io pago di meno già. Sto facendo dei preventivi ma non li spendo tutti questi. Con quei soldi me li metto sotto e sopra. E dove li hai fatti? No, lo dico. Con quei soldi almeno 6.000, 7.000 euro l'avrei fatto già. Sempre in Italia, là. Non qua a Sassari, qua a Sassari ti spendano. E dove ti fai? C'è coso anche, quello sardo. In Moldavia. E allora? E vai là. E perché? Perché se ti succede qualcosa per il riservo di tornare là, perché qua non te ne va benissimo. Guarda che è successo un amico mio, e purtroppo ha avuto un tumore alla bocca, e ne hanno dovuto togliere tutti i denti. Hanno dovuto aprire la gengiva e togliere il tumore. Poi ha messo i denti finti e è andato là a metterli, dopo che gli è guarito tutta la ferita, tutto quanto è andato a farli fuori. E praticamente si è fatto pagare una cazzata a confronto a qua. Solo che poi si sono smollati e doveva stringere queste cose e è andato da diventi, si è detto dove li ha fatti dei Moldavi, vado in Moldavia a farceli stringere e l'hanno mandato via. E ne ha fatti solo uno, gli ha fatto pagare una cifra esorbitante. Se qua fai un lavoro da 20.000 e lo fai per 7.000 vedi un po' la differenza. Qua sono bastardi, devono aggiornare un po', non fai sparare prezzi esorbitanti. E poi bisogna vedere sempre che cosa ti rimettono, se in ceramica, se ti rimettono in cose resina, come ti rimettono. No, ceramica. La ceramica è molto delicata, io ci sono in ceramica, a me mi si sono spaccati e ho dovuto rifare tutta l'arcata, lo sai. E va. Allora, mangiando il coniglio, un osso del coniglio mi ha spaccato il dente, ma proprio spezzato, non si poteva aggiustare, siccome era brutto perché era davanti. Ho dovuto cambiare tutta l'arcata. E va in garanzia era? Sì, un milione, 1.000 euro lo dovete mettere lì e 1.000 euro l'ha messo il dentista. Cazzo che bastardi. Garanzia, ma fammi proprio un piacere, perché se no dice che lui, io gli ho detto che mi si era rotta così, dice allora tu hai stretto forte i denti di notte, questo e quell'altro, ma non mi discusi, capito? Allora mi ha fatto fare bite per non morsicarmi la cosa, ci ho speso 100 euro per il bite, però l'ho mai usato, non erano i denti, no, era l'osso del coniglio che mi ha spaccato il dente. Che sa, 1.000 euro, cioè 2.000 euro con denti, ma per carità. Tutta la carta ha dovuto rifare, non si poteva aggiustare. Tutta svitata così. Invece se lo fai resina, si può aggiustare anche addosso, e lo aggiustano direttamente, anche mentre lasciandotelo addosso. La resina si può fare, me l'ha detto, ma la resina non conviene. Io ho parlato con un'amica mia che lavora da un dentista, una ragazza che ho avuto là, e mi ha detto, già non te li fare mai fare in resina, per quanto buona sia la resina poi si ingiallisce e diventa brutta, mentre invece la ceramica rimane sempre bella. Osso e resina si fanno gialli, osso, per carità. E a me mi hanno proposto da vita al dente, quindi resina, poi c'è una resina buona che non si ingiallisce, che questo e quell'altro, e mi volevano far pagare quanto quello in coso. No, ho detto, lo lasci perdere, no, troppo alto, è troppo alto il coso, il tanto da pagare, non ce la faccio, e ho lasciato perdere, l'ho fatto da un'altra persona. Ho capito, un bel di naso, un bel di naso vivo ne già, un bel, non bastano mai. Non bastano mai. Si fanno la forca uno con l'altro, eh. Sì, vabbè, quello che ho fatto io, quello che ho, dove l'ho fatto io, ha fatto il bastardo. Quando gli ho chiesto la fattura, mi ha detto, perché cosa sono l'unico coglione di turno che ti fa la fattura dopo averti fatto uno sconto esorbitante? Che sconto mi ha fatto? Mi ha fatto un buon adesivinaio. Che sconto mi ha fatto? Guarda che ti ho messo un materiale che è di prima qualità, eccetera, eccetera. E ho detto, vabbè, ho capito. Non mi vedi più in occhio a me tu. Tutti i contanti mi hai dato, no? No, gli ho dato 5.000 euro in contanti e poi 500 euro al mese. Dico 5.000 euro in contanti, il cazzo sono un pacco di dinare. Allucinato, non ti si immagini. Vabbè, quanto tempo te li hanno fatti già? Ci sono stato un annetto io, sempre per registrarli, per farli, per mi faceva tornare 50.000 volte perché mi toccavano e mi davano fastidio, eccetera, eccetera. Dipende, se riesce bene dall'inizio, inseguisci te la capo. Io ci ho messo un annetto perché ho avuto problemi alle gengive, mi si sono gonfiate come toccava, ho dovuto fare degli interventi, rimane il dente, eccetera, eccetera, per non toccare. Ho capito, dipende, ci sono quelli bravi bravi, questo qua è giovane almeno. Sì, è l'età mia, 60 anni, è nato lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno mio. Ho capito. Però 10.000 euro, fatti la fattura, è proprio un misero, eh. E ci sarebbe stato da registrarlo, c'avevo Liliana come testimone, ci sarebbe stato da registrarlo e da farlo portare alla finanza, la registrazione. Così almeno avrebbe imparato a parlare così. A parte che c'era una donna, si è saltata la mano, ha detto non sono l'unico coglione, questo è quell'altro. Incazzato, l'ha detto, da piccolo. Ehi, vabbè. Avrei risposto a morto io, di gridi, c'è 10.000 euro, mio, non so come tieni di 100 euro, 100 di caramelli, sono proprio un bel di soldi, un bel di dinaro, ma se due te l'avevi bruciato, l'avevo. Comunque puoi fare una cosa, ti puoi fare un ponte sotto, non ne hai detti sotto buono? Sì, ce li ho, però per una cosa fatta bene, non forse così provvisoria già, niente, cose fatte bene. Ma il ponte non si muove, no? Io ce l'ho un ponte, non si muove niente. I due denti ce l'ho sotto, perché gli altri ce li ho tutti. Cioè, due denti che mi hanno tolto e ho fatto un ponte di due denti, che se fa Dio, mi pulivo lui, se si pagavo chissà quanto. La gente va fuori a farsi già, purtroppo. Va fuori per risparmiare, perché qua sono ladri. Sono ladri, ma ci si fanno i prezzi. Allora, dovrebbero fare delle agevolazioni alle persone che magari, tipo come me, che non lavorano, sono disoccupati. Ma ce non ne fanno, ma con quelli, ma con queste cose fanno. Sì, che te le fanno, all'ospedale te la fanno la dentiera, però di quelle dentiere degli anziani, quelli che ne esco. No, sto parlando dei dentisti, no, della Caritas. All'ospedale te le fanno con la mutua, ti fanno i denti, ti tirano quelli lì e ti mettono la dentiera, però è di quelle dentiere scorribili. Basculante. Quella che quando vai a mangiare la mela ti rimane la dentiera attaccata alla mela. E poi c'è una mania alla musica Udurroni, staccata attaccata alla dentiera, a Udurroni. No, non fate. Oh, vabbè che ci sono adesso quelle specie di colle per le dentiere. La migliore è quella Cookie Dent. Io le ho provate tutte quando mi hanno messo con la provvisoria, perché senza denti non ti lascia, però ti ritoglia, ti fa prima con la provvisoria, ti mette la provvisoria per non vedersi che non hai denti e poi ti mette quelle fisse, no? E quando mi hanno messo con la provvisoria usavo questo cookie dentro, lo mettevo, cazzo, però da voi tutta la bocca con la gola attaccata, vabbè. Non è forte come colla? Forte, cazzo, ti sto dicendo che non esce proprio. Ho capito, è molta gente la usa. Cookie Dent è la migliore, le ho trovate tutte, poi dentro questo, quell'altro, la Cookie Dent è la migliore che c'è. Mangiavi tutto? Tutto, tutto. Come pensavano ci fossero 20.000. Ma è sempre una cosa. 36 piccole tante. Questo colpo è strano, mamma mia. Lo so. All'inizio è poco lì, poi ti abitui e sembra che siano i denti tu, ma te ne rendi conto. Lo so, ma sempre questo colpo è strano, cioè quello che ti tocca il palato anche, no? Sì. Cioè non c'è ancora tu finito. Ma per carità. Sono pensato che stavano nel vomito. Cosa devi fare? Purtroppo se non c'hai i denti devi cercare di metterli a posto, va? Lo faremo, quindi là, piano piano. Tu mi dici di 80 al mese, 350 euro al mese, non ce la fai. È meglio che abbia tutti i soldi insieme, quindi sono sicuro di quello che sto facendo. Se poi non ne ho, come faccio a darglieli? Ecco, lui è vero, e tu non c'è uno stipendio ufficio, non ti puoi regolare. C'è il mese che guadagni 3.000 euro, il mese che ne guadagni 1.000. Vabbè. Speriamo un po'. È un bel casino. Purtroppo certe cose dovrebbe darle la sanità. Io ho pagato tanti anni, ho sempre pagato il corso sanitario, però certe cose oltre all'anno ti danno le cose da bovaracci. Uno si accontenta, se non c'è su, dice vabbè, buoni meno attenti alla Roma come si gheggia. Ma tu l'hai rinnovato il coso del medico già? Che cosa? Il foglio, quello è 02. Aspetta, foglio, stai parlando del piano terapeutico per caso? No, della sanzione del ticket. No. Ma non l'hai rinnovato quest'anno? Io non le rinnovo mai, me lo mettono sempre l'esenzione, ce l'ho sempre io, perché essendo diabetico ce l'ho. Perché lo devo rinnovare? Ma non so se sto, cioè dicono che è chiuso l'INAM. Allora non so come sia, perché io ho l'80% di invalidità, quindi ho un'invalidità alla 0,3. Ho capito. E mi hanno detto che è chiuso. Ma per chi? Per te o per tua madre? No, per me. E magari a te ti danno, tu non pagando le cose sanitarie, tassa sanitaria, te lo danno così, capito? Quindi non devi rinnovare niente, perché magari può cambiare la situazione, tu vai a lavorare e ti fanno pagare le tasse. È quello. Quello lì. Stasera non entra nessuno, di solito entra, come si chiama? Fabio, stasera non c'è. Fabio Pomponio. Gigante, entra Tonino, entra Franco di Sorso, volte. Oggi devo ci vedere che programma che attira, ma non ci sarà Belen, no? No, sono le Iene. Taglia uno. Senta il televisore. Mi trovo, mi corrico un divano e mi addormento e mi sveglio alle 4 di mattina. Si sente il televisore? Adesso vediamo. Casino, un casino. Non si sente però. Si sente poco. Meglio ursi. E non si deve sentire il televisore, si deve sentire la voce tua. Certo. E certo che sì. Ascolta, ma tu che cosa hai fatto per i canali, quell'apparecchio? Io ce li ho già, c'ho canali di sopra, tutto quanto c'ho. Ho spostato il jumper. E cos'è sul jumper? Si trova negli hard disk anche già. Una specie di spinetta, là. Che ci sono tre piedini, uno, due, tre, ed era messo nel primo, guardandolo così frontale, era messo tra il primo e il secondo, e l'ho messo da secondo al terzo, e ti dai i canali. Ma tu quanti li avevi prima, normali? Ne avevi 40 per bar? 40 solo e basta. Solo 40, ma non per bar? 40 solo, omologati. No, questo qua già fa tutto, e allora va bene, il mio va sui canali su 45 eccetera. Anche il mio adesso? Però devo abbassarvi i watt, perché non mi piace che sia studio, lo metto con 5 watt e via. PVR, adesso c'ho lo schemino io. È facile farlo, pa. Lo so, però adesso io devo attaccare, tu non sai come ho fatto. Aspetta che te lo faccio vedere come l'ho fatto. C'ho il telefono spento già. No, te lo faccio vedere. Allora praticamente ho messo il sotto, ho messo 3009 sopra il coso, il magno. Per non muoversi e ho messo il bioadesivo tra il magnum e il 3009. Quindi dovrei staccarli, rifare tutto quanto da capo e non aggiungare la verità. Il bioadesivo, mamma mia, ti macchia, tutto il maracchio ti macchia. Ma non ho macchia questa qua, è un bioadesivo particolare. No, non mettere i baracchini uno sopra l'altro non conviene. Quelli affiancati, no, uno sopra l'altro. È brutto così. Non è brutto, se vedi me sono anche pinti, non solo di essere brutti, stanno bene. Sembra tutto un apparato. E che vuoi che ti dica? Io già lo sai che c'è il ragazzino in bozzo, solo che non ci stava e allora, infatti ho fatto male a comprarlo perché la stazione era già completa come la prima. Vabbè. I baracchini non sono parato, non si mettono, dai. Ascolta, il tuo c'ha lo smitter blu? No, rosso. Ah, rosso, non ho capito. Ehi, ehi, adesso vediamo, quando ne ho voglia, non sto facendo, che non ho niente da fare, me lo apro e mi metto i led bianchi nello smitter. No, lo smitter è bianco, i canali sono rossi. Ah, il mio è il canale rosso lo stesso. E il bianco, giallo è. Lo sporco. E mi acqua fredda stavo dicendo, è troppo fredda. Va a Napoli. Ehi, vabbè, la pagina fredda, come ti dici? La pagina fredda. Ah, tu vuoi mettere la lampadina color ghiaccio, quella bianca? Sì. Ah. Vabbè. Ma ci sta bene quella blu. Io l'ho visto blu, va bene. No, sono tre led già, capito? Tre led. Ma blu è un bel bello. Lo sto dicendo. È troppo bello blu. Lo so. Lo so, poi blu o rosso, sì. Vabbè. Poi lo metto la sugi e chi non la giurata? Lo saci. Stai prendo una bottiglietta d'acqua? Sono passati. Ho mangiato poco fa carne con i piselli, buona, ci ho fatto un po' fame. Io ci mi sono fatto il pesce spada alla pizzaiola, che buono. Me l'ho preso sul gelato, ma lo sai quanto è buono. Hai visto che ci ho fame, mangio due merendine e va. Ma poi la vita di mangiare, cazzo, che sono qua a dieta. Sto cercando di mangiare poco. Uno yogurt mi sono mangiato a cena. Da mezzo chilo, però. No, il sugameggio a me, fucci. No, a me no. A me mi riempie e così non mangio altro. Vabbè, a gusti. E mi piace lo yogurt, solo io con i latticini ci vado molto d'accordo. Cioè, non ci vado d'accordo. Sono intollerante al lattosio. Ah, quello è... No, io mangio mozzarella, mangio formaggi, tutti i formaggi piccanti sono i miei. Crema di formaggio. Crema di formaggio piccante mi piace da morire. Anche a me. Ma sai dove la vendono buona? Da ditta di vicino a casa. Perché c'è la crema di formaggio che l'ho provata in un bel impusti, ma quella è proprio favolosa, è buonissima. Ma non devi abusare di queste cose, fanno male. Non crederti. Perché la cosa piccante ti libera le arterie dai grassi, lo sai. Il peperoncino, per dire, è un vaso di lattatore. Infatti l'ho messo peperoncino io. Nella carne con i pisilli, ha fatto un mappo. Sono anche esagerato. Un gravante ubriaco troppo piccante. No, io uso quello in polvere, ne metto due così contatti. Lo fa un po' piccante, ma non esagerato. e mi regolo, invece se metto quelli interi non mi regolo. Infatti io ne ho messo due interi, cioè ne interi no, li ho sbriciolati, dai. È quello che è sbagliato, non li devi aprire, se li apri c'è tutto il piccante, normale. Infatti era un bel piccante, mi sono bevuto un bicchiere di vino anche, bello fresco. I semi sono un bel piccante, capito? Ti crepa. Beh, lo sai che ho un amico che se li mangia, tu gli dai i peperoni, quei peperoncini, quelli grandi, se li mangia, li musica, non li fanno nulla, non li sente. L'ha mangiata davanti a me, io stavo morendo al posto suo. Ma come fai? Io non sento il piccante, boh, non lo sento che sono piccante. Lo sta facendo Marina, non so chi, forse la parenti di Usini che lo fanno, ma quelli piccanti, li mangiano come se niente fosse. Non so se Marina li fa, quei peperoncini rotondi, ripieni, non li ha mai mangiati. Ha voglia. Quelli sono piccanti lo stesso. Cazzo. Sai, mi ho piantato io nel vaso. I pomodori quelli ramati, quelli piccolini di ciliegina. Sono usciti? Sì, sì. Ma sai cosa devi fare? Devi aprire il pomodoro in due e metterlo sotto terra. Boh, basta. E innaffi ogni giorno e ti crescono le piante. Ah, un pomodorino piccolino basta. Ehi, lo apri in due, no? Lo metti sotto la terra, lo bagni ogni giorno un pochino e dopo una settimana vedi la piantina sbucare. Ma i pomodori non sono usciti ancora? No, ancora no, l'ho piantati da poco. Ho capito. E Maria si è piantato, sa, pensiamo è basilico. No, io c'ho l'alloro, l'origano. No, l'origano, ma come si chiama? Non è origano, Allora è rosmarino. Rosmarino. C'è tutte le piante che uso, capito, è la menta, ho trovato la pianta di menta di quelle selvatiche, profumata, ho provato a piantarla, la prima volta non mi è riuscita, la seconda cazzo l'ha attecchito e tu devi sentire il profumo, come ti avvicini senti il profumo da lontano. Vabbè, se mi serve rosmarino, coso, e allora campagna da padre di Marina. Anche io ce l'ho in cortile, però è una questione di... Se non regala di vara, sei in pigiama, devi cucinare, cosa fai? Scendi giù, invece vai lì e lo pite. La menta la uso per le favette. Vabbè. Allora, tutta questione di mangiare, magna, ogni santa di che palle. Non perdiamo il vizio di mangiare, non lo perdiamo mai. E poi ogni giorno. E sono spese, ogni volta che vai mi lasci 80, 60, perlomeno io. Io sono esiliato, compro roba che mi piace e quando vado alla casa sono sempre 60, 80 euro, minimo. Oh, mi sono spostato di un po' di canali già, giusto così, un attimo. Ma sono 50 di anni. Non ti sento con questo. Cazzo, un lato ti sento. Va bene. E... Questo si contamina o no? Sì. Beh, userò questo adesso. Sempre quello. Allora. Perché sei un po' comune, ecco perché. Davvero, Non usa. Attattina, metti. Non i drommi. No, stavo preparando la roba per domani, adesso mi guardo le cose al PC e poi vediamola. Andare. Ciao Tino. Buonasera a tutti, Ma ti piace questa radio, sì? Sta uscendo bene? Sì, lo so, l'ho sentita, va bene. Andare. Ma dicono che l'altro lo spinge un po' di più, perché si deve autoconvincere lui stesso. Dice sempre così, ti piace questa radio? Sì. No, vabbè, non mi ricordo di averla, se questa voce l'ho modificata, non lo so, se l'aveva sentita questa qua, Già l'ho sentita, che stavi anche poco fa, dai, quando c'era la Sicilia, dai. Ma ero con quello modificato. Ma questo è 2009, l'ho ortografiato, giusto per ricordartelo. 2009 ortografiato? 3-9. È il 3009, cos'è? Vabbè. No, tutto graffiato, qualche graffettino c'è, dai. Vabbè, se lo bocci sempre i vendigli, me lo biglio nuovo, non è che c'è un problema. Ah, un momento che tengo questo qua, va. Mi abbiglio in culo. Già va bene, no, già va bene. Lascia stare, già va bene. Io il consiglio di tavolato era di prenderti quello come il mio, però. La digitale non mi gusta. Io sono sempre per la roba analogica. Capito? C'è qualche bip che vuole entrare avanti? Ah, vaffanculo. Lascia vedere, ma non mi ricordo se anche questo c'ha il bip, lascia vedere. Guarda adesso ce l'ha. Guarda un attimino. Sì. E com'è? Che non lo sento. Cioè, ma squillante è il mio il bip. Non so, com'è? Com'è l'altro, com'è il typhoon? Sì, no, va bene. Non è esagerato. Più o meno come quello di Tino, un po' più basso, va. Adesso io la faccio. Me lo farà vedere Antonio cosa fare. Mi collego, taglio il bip e lo collego al canale 9. In che senso? Nel senso che lo posso anche disabilitare dal canale 9. Ah, ti usi l'interruttore del canale 9 per disabilitare il bip così. Mica, guarda questo invece, questo me l'ha fatto regolare Marco Scorpio, ma Marcolino Condor. Vabbè. Quello era ci voleva 6 minuti e mezzo per mollare, invece questo è più corto, va. Beh, riprese a lavorare ti, sì. Sì, sono già dal 4 ho preso io. Va via. Sto bevendo un goccio di mirto che per digerire. Io sono al 4 che siamo operativi, però stiamo prendendo a fare un po' di manutenzione ai mezzi prima di iniziare, diciamo così, una condotta, dai, giusto per... stiamo aspettando che ci arrivino i tubi ancora con questo coronavirus, non stanno viaggiando, quindi bisogna aspettare un pochino, però già dovremmo partire a presto, va. Ho capito, tu vi arrivano da fuori? Sì, arrivano da fuori e poi a questi non li capisco, cazzo, gli hanno messo la fretta, dovrebbero consegnare tutto entro dicembre, ma se non importi il materiale come fa uno, cazzo, a iniziare a scavare a fare? Infatti. Sì, aspettiamo, aspettiamo. Nel frattempo ci sistemiamo i mezzi e vediamo cosa esce fuori. Capito? Perché praticamente ce ne aveva già i droni, però non erano, li stiamo verniciando, stiamo facendo quelle piccole perdite che magari qualche macchina di usura ce l'ha, capito? Quindi adesso stiamo facendo quasi come nuovi, quasi. Ero piano, Gianni. Eia. Ma se per la ruspa stai guidando, ti stai facendo frappigamore? No, diciamo che il mio mestiere è scavaturista, però uso la maggior parte tutti i mesi, dai, diciamo, anche il camion compreso. E in più faccio la manutenzione in altre cose come muratore, pavimentista, in bianchino, quello che c'è da fare già. Nell'impresa in cui ero prima facevo di tutto, quindi mi è rimasto colorito. Prendinate e mettila da parte, Zeris. E diciamo che io ero l'unico nella ditta che faceva un po' di tutto, no? Nel senso che c'erano i camionisti che facevano i camionisti, il palista che faceva solo il palista, io invece mi dovevo adattare a prendere un po' tutti i mezzi e in più fare anche roba di muratura, questa roba qua, no? Quando c'era da fare qualche ristrutturazione c'ero io che insieme a un altro e facevamo, capito? Non ci siamo mai fermati per quello. Era più o meno come ero io nella ditta, facevo il pescivendolo, l'autista, sistemavo gli scaffali, quando c'è andato a casa andavo a casa, insomma un po' tutto. Sì, già, dai, anche perché io non sono stato mai limitato, io addirittura ho varie patenti, non è che anche la patente per saldature in polietilene, però non so il perché in giro di pochi anni questo polietilene praticamente è andato alla grande, tutti i primi forse 3-4 anni, 5, adesso invece nessuno li vuole, quindi del patentino che hai se ne fottono perché mettono altri tipi di tubi, capito? Ah, ho capito. E io ho il diploma come salvatore elettro-ossea cittadinico, io saldo ossigeno elettrico e purtroppo quando io ho finito le scuole ho lavorato alla Montiglia un po' di tempo, poi hanno chiuso e quindi mi sono dovuto adattare a quello che ho trovato, però io avevo il mio lavoro. Ho capito, ho capito. Ah, a proposito Luca, cerca di capirmi, guarda che sono arrivati e non so se ti hanno dato l'avviso, quindi controlla. Ho controllato, non c'era niente. Ma a metà mattina. Ma RCD. Eia, no, RCD no. L'altra, quella avevamo fatto. Ah, forse tu non l'hai fatta quella, io e Luca l'avevamo fatta. No, io no, no, no. Retrocedenza niente. Ho fatto anche quella perché in un mese sono rimasto in disoccupazione, quindi ho fatto la domanda di disoccupazione più quella del